ma quel cretino di Parenzo, ma cosa mette? No, è vero, ma denunciateli a sta gente qua, tutti e due compari, sono due cretini. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Il Papa Francesco, se mi ascolti, grazie a voi giornalisti per questa possibilità che mi avete dato, e se io celebro la messa ricordatevi che io pregherò per voi. Allora ragazzi, mi stanno rompendo le scatole da ieri persone che appartengono, non so, a questo gruppo che si chiama i neocatecumenali, fanno un sacco di figli eccetera eccetera, e quelli che hanno partecipato alla marcia per la famiglia, alla manifestazione per la famiglia l'altro giorno, perché sembra che noi insieme ad altri abbiamo distorto le parole di questo signore che si chiama Argelio, Arguello, non so, pronunciatelo voi come vi pare, questo spagnolo, questo pittore fondatore del movimento neocatecumenale. Io sai che queste sette qua le cancellerei, le abolirei. Ma no, sette, non vuoi chiamarle sette. Io le abolirei. Sono, no, le abolirei. Sette, non mi piacciono queste cose, sette. Non mi piacciono gente che si sposano, pare che si sposino tra di loro, fanno tutto tra di loro. A me queste cose qui, no. Ma cosa vuol dire fanno tra di loro? Fanno tutto tra di loro. Che uno si prende una persona sensibile, non è che tra di loro. Questo, no, poi posso dire delle cose che noi non condividiamo, io in particolare, non le voglio. Però, ma perché devi criticarli così? Cioè, vabbè, comunque, questi qua, scusa, questi qua, no, ma questo qua. Ognuno sposa i suoi sì, figli, questo, dire, no? Ma chi l'ha detto? Ma non è vero, ma questa è una follia. Ma è una roba nazista, questa roba qua, è una roba ariana, no. Nazista. Comunque, vabbè, questo è. Uno condivide un pensiero, una roba, sposa una persona con cui ha un intento. Ma che c'entra, no? Questo? Di costruzione di una famiglia. Vabbè, roba, no? Arguello, no. questo Arguello, io voglio ripetere ancora una volta, questo tizio qua ha collegato l'uccisione di donne e bambini, cioè l'uccisione della propria donna e dei propri figli, ha collegato in un discorso certamente più ampio, questo tizio Arguello ha collegato questa roba all'abbandono, cioè al fatto di essere lasciati, al fatto di essere lasciati. Le parole sono molto molto chiare, addirittura un uomo ateo lascia. Sentite questo passaggio. In Spagna c'è un macello, un uomo che ha ucciso 5 bambini. Tanti casi di questo tipo, donne uccise, perché se questo uomo è un laico, è un secolarizzato ateo che ha lasciato di praticare non va a messa, il suo essere persona, chi se lo dà? L'amore della moglie. Ma se la moglie lo abbandona e se va con un'altra donna, questo uomo può fare una scoperta inimmaginabile e sperimenta il non essere amato. Questo si chiama l'inferno. Cioè il suo discorso è chi è senza l'amore, senza Dio, può portare a cose, all'uccisione eccetera. Ma lo vogliamo dire chiaramente che chi ammazza qualcuno, la propria donna in questo caso, i propri figli eccetera, non c'entra niente che creda, non creda. È pieno di assassini credenti, è pieno di gente che ammazza in nome di Dio. Ma di che parliamo? Ma di cosa parliamo? Ma perché bisogna specificare? No, perché l'uomo senza Dio eccetera eccetera. Pure Giuliano Ferrara dice no, è stato malinterpretato. No Giuliano, non è stato malinterpretato, è lui che ha detto una puttanata. Sono puttanate queste qua, stronzate. C'è gente che ammazza in nome di Dio, anche uno cattolicissimo, anche uno che crede, anche uno che ha come no, Dio ogni giorno, che prega 100 volte al giorno. Se ti prende il matto puoi ammazzare la tua donna, puoi ammazzare i tuoi figli, perché è una questione del cervello che parte, solo questo, non c'entra niente credere o non credere. Il primo motto che sente dentro, perché ha una, sente una morte tan profonda, che il primo moto è ucciderla, e il secondo moto è come il dolore che sente, è quasi mistico perché è siderale, è orroroso. Allora pensa, come posso far capire a mia moglie il danno che mi ha fatto? Già so, ucciderò i bambini. E vai, uccidi i bambini. A proposito di cattolici, l'amico Fanzaga di Radio Maria, voglio farvi ascoltare. Fanzaga, Radio Maria. Radio Maria è quella che ogni tanto vi rompe i coglioni con la frequenza. Quando volete ascoltare un'altra radio, in realtà c'è Radio Maria che vi rompe le balle, vi fa due coglioni così, signori di Radio Maria. Lasciamo perdere, va. Senti che dice sui musulmani. Sui matrimoni misti che presentano criticità di non facile soluzione, state attenti ragazzi, con lo sposato musulmano, perché i problemi sono gravi, ve lo dico, state attenti, perché poi i problemi sono molto più gravi di quanto voi non pensiate. Se sposate i musulmani ci sono problemi grandissimi, grandissimi. Questa è la grande carità cristiana, no? La grande carità cristiana. Lui porta acqua al suo mulino, alla sua chiesa. Dai, su, dai, dai. Oh, fra poco grande ritorno, fra pochissimo grande ritorno di Vittorio Sgarbi alla Zanzara. Però a proposito di immigrati, perché l'altro giorno ha detto qualcosa sugli immigrati e sul Papa, Vittorio, Santanchè, sentite questa cosa. Questo finto falso buonismo, perché poi trattare la gente così, cioè visto che sono esseri umani come noi, che devono mangiare, devono dormire, vuol dire riempire le nostre città di delinquenti, di gente che ruberà nelle nostre case, che aggredirà le nostre donne, che farà sì che non ci sia più sicurezza. Allora io dico basta. Allora, De Luca ancora non è stato sospeso, Vittorio Sgarbi è a Milano, come sempre. Vittorio? Eccoli! Come andiamo? Bene, ho presentato un libro, sì? Una collezione meravigliosa che sta a Palazzo San Gervasio in Basilicata. Sì. E questa collezione l'hanno portata a Matera. Sì. Allora ho esortato, sì, alla ribellione i cittadini di Palazzo. Perché? Candidano al sindaco Palazzo, volevo fare il sindaco Palazzo San Gervasio. Vabbè, maestro, non è che ti puoi candidare sindaco in tutta Italia, Vittorio, no, dai, su. Abbandono Milano e vado lì. Ma dai, su. Non è che ogni volta ti puoi candidare sindaco in 40 città, se no diventa una farsa, amico mio. Non ti posso manco appoggiare su Milano. Scusami. No, stavo scherzando, perché sono molto divertente, perché ho gridato a risurrezione. Dico, fatemi ridare i vostri quadri, non lasciatemi a Matera. Erano tutti divertiti. Senti, ma non ho capito, qual è quella storia del Papa che dovrebbe accogliere gli immigrati, che gli devono fare, allora, bidet, il bidet? Papa... Quella sul bidet. Beh, il bidet, ricordo, è una battuta. Vabbè, ma fammi. No, è una, per dire, le persone vogliono delle case comode. Sì. Quindi, per esempio, l'ho utilizzato la parola bidet proprio a Matera per dire quando hanno sfollato i sassi, ritenendoli insalubri, luoghi che non potevano essere per le persone civili. Hanno fatto lì a casa degli appartamenti con il bidet, quindi il bidet lo uso per dire dei luoghi dove la persona vive in una condizione. No, ma il Papa che dovrebbe fare? Cioè, dovrebbe accogliere gli immigrati? Sì, il Papa deve. Allora, il problema degli immigrati è molto semplice: arrivano in Italia, ma devono andare in Europa. Uno dei luoghi d'Europa è il Vaticano. Lui vive a Santa Marta. Sì. Quanti metri quadri liberi avrà per metterci, non so, 15.000 immigrati? Perché non li mette? Cioè, dove dovrebbe metterli? Beh, ottimo, ottimo. Quindi il Papa è il primo. Io a Milano ho detto, divento sindaco, non voglio lo smantellamento delle scuole, che costa soldi inutili da smantellare, poi servirà per fare la speculazione edilizia, per costruire i soliti grattacieli verticali alla Boeri, per venderli ad alto prezzo a persone che poi non li comprano. Li abbiamo già, sono pronti, sono comodissimi. E che ce fai? La cittadella degli immigrati? Vabbè, ma che cazzo serve la cittadella degli immigrati, amico mio? Non sai dove metterli, non li metterò né a casa tua, né, cosa fa, né devono occupare. Piuttosto che smantellare un sito, potrò darlo a un disperato? Oltretutto c'è un dato quasi leghista. Quando tu arrivi alle scuole, dovrai trovarmi, hai mille difficoltà ad entrare. La polizia che serve per impedirsi di entrare potrà servire per impedire loro di uscire. Saranno in un posto bellissimo che non avrà nessuna possibilità altro che di essere con l'acqua corrente, i bagni, tutto quello che vuoi, per loro. Cioè non è un posto da cui potranno andare fuori, saranno lì, saranno una comunità, si vive, si intreccia all'interno di quel luogo dove c'è tutto pronto per ospitarli, una ottima area di accoglienza. Dove ma scusa, tu dunque sei dell'idea, al di là della, di questa vicenda dell'Expo, tu sei dell'idea, Vittorio, che in realtà il Papa non può parlare di accoglienza, eccetera, di umanità, se non li accoglie un po' nelle innumerevoli proprietà vaticane? Beh, mi pare abbastanza evidente, no? Eh no, è che è evidente, molta gente dice no, non è vero, la Chiesa fa già tanto. Che fa la Chiesa? Non ho capito. Ha metri quadri la Chiesa o no? Ha voglia, come non c'è? Gli esercizi si misurano sul numero dei soldati e le proprietà sul numero dei metri quadri. Se non hai metri quadri, se li hai, cosa? Perché devo metterli? Io, Petrini dice prendete un immigrato a casa vostra, sì, d'accordo. Se tu hai 50 metri quadri, dove te lo metti? Allora, no, uno ha, non so quanti siano le migliaia di metri quadri del Vaticano, abbastanza da cogliere un certo, cioè tu puoi immaginare che il Papa la mattina si alza, incrocia un immigrato nei corridoi e lo portano a dormire al Vaticano, e lo portano, ma la mattina si alza e fa colazione con un immigrato, con non un clandestino. C'è l'appartamento del cardinale Bertone, 700 metri quadri, sì, e quello è vero, sì, gli ospiti Bertone. Io per quello che mi riguarda dico, se ho degli spazi che butto via, ho un padiglione che può contenere 300 persone, perché devo distruggerlo? No, vabbè, sì. Io non l'ho detto la cosa per fare una propaganda leghista, antileghista, ho detto, io vedo, e vado lì ogni giorno, l'ipotesi in ottobre di smantellare tutto, perché sì, smantellare tutto? È tutto pronto, c'è l'acqua, è collegato, c'è la luce. Ora, se io ho questo problema dell'ospitalità degli immigranti, sparisce, è un problema, sì, o se è un problema, lì lo spazio c'è. Qual è l'alternativa? Buttare su tutto? No, l'alternativa mia è quella che fa l'Australia, che paga pure, paga pure gli scafisti per tornare indietro. Questa sì, è la mia idea. No, ma io non sto parlando del fatto che ci siano altre soluzioni. No, tu dici una volta che sono qua. Una volta che sono qua e non sai dove metterli, lo spazio c'è. La città di Milano non ha nessuna buona ragione per lasciare dei padiglioni vuoti. No, ma guarda che Vittorio ha ragione perfettamente. No, cioè, questo si chiama nutrire il pianeta... Andate d'amore, d'accordo. Un attimo, fermi tutti che c'è il traffico. Voglio chiedere a Vittorio fra poco se è normale, secondo te, fare come fanno i neocatecumenali, tra cui questo tizio pittore francese che ha detto una boiata pazzesca sul femminicidio, cioè sulle donne uccise perché lasciano l'uomo, perché l'uomo impazzisce quando viene lasciato, eccetera, eccetera, eccetera. Se è normale, come dice Parenzo, fare anche 13 figli, se è una cosa normale. Secondo me, vabbè che tu ne hai fatti pure un po', però non eri consapevole. Cioè, 13, gente che fa 10, 12, 13 figli, ma di cosa stiamo parlando? Una cosa controtendenza. Viva il traffico, perché c'ha una voce sexy. La Zanzara. Allora, innanzitutto voglio chiedere a Vittorio Sgarbi se comprerebbe mai un dipinto, un acquerello di Hitler, perché c'è stata un'asta, no, c'è stata un'asta a Norimberga, dove alcuni acquerelli, sai che era un pittore mezzo fallito, insomma, Hitler, no? Sono stati venduti anche a 400.000 euro all'estero, ma è roba che può avere valore? No, ti posso dire, allora, uno dei progetti che ho, l'abbiamo presentata, e verrà realizzata nel 2016, la mostra dell'arte degenerata, e fu quella che Hitler fece esporre a Monaco nel 1938 per indicare Kandinsky, Picasso, Klee, che era tutta materia che andava messa... Ma tu lo compreresti mai un acquarello di Hitler? No, allora dicevo, a fianco di questi, Picasso, cioè, volevo fare una saletta con gli acquarelli di Hitler, far vedere come la sua dimensione così da geometra, scolastica... È un decoratore, è una signorina, è un temperamento da signorina. Ma dove lo volevi fare sta roba? La faccio faccio la mostra dell'arte degenerata a Venaria Reale e c'è una sezione dedicata agli acquarelli di Hitler. Gli acquarelli di Hitler esposti a Venaria Reale, non te lo faranno fare, lo sai, no? Cioè... Beh no, perché vengono mostrati. Te lo dico subito. Dimostrazione, però sicuro che si oppongono, però sarà la dimostrazione di una. Allora, secondo te è normale, cioè, al di là della questione, non so se hai letto di questo Chico Aghello, no? Il femminicidio è colpa delle mogli che non amano più il marito, questa è la sostanza di quello che ha detto, poi alcuni negano che lo abbia detto, eccetera. Ferrara dice, c'è stata una deformazione delle parole di Chico Aghello, l'istinto a uccidere viene dagli uomini senza Dio. No, caro Giuliano, l'istinto a uccidere viene perché sei matto, ma anche se c'hai Dio puoi uccidere, ma basta con questa stronzata, dai, su. Non c'è dubbio, sì. Dai. Ma quello che non ho capito è la teoria del catecumeno, qual è, che bisogna fare figli per forza? Sì, tanti figli, tantissimi figli, tantissimi figli. Può farne quanti vuole, lui chi se ne frega. Tantissimi figli, tantissimi figli. Ma per te fare figli com'è? È del tutto preterintenzionale. Cioè, io sono un genitore, non un padre, perché il figlio nasce dalla volontà di fare figli. Se uno ha un figlio perché gli è venuto, perché la donna non ha preso la pillola, perché si è sbagliato, perché è chiaro che deve essere responsabile di quella maternità, però non ha la volontà, quindi l'unica forma di paternità è quella della volontà. Quando uno, come mio padre, si sposa, vuole un figlio e nella famiglia vuole educare quel figlio, quello è il padre. Io non ho fatto famiglia, non mi sono sposato, non voglio educare nessuno, se viene un figlio ne sono responsabile, ma non ne sono un padre. È un fatto oggettivo. E dunque non te ne occupi, diciamo, no? Posso, ma tendo a non occuparmene o se ne occupa la madre, però il mio occuparmene è garantire che egli possa essere mantenuto. Quindi questo posso, è il limite, però è per dire la mia posizione. E anche questa è una rottura di coglioni. Beh, certo, costa qualcosa, insomma. Ma bisogna anche aggiungere che non ho capito perché uno deve fare 13 figli, cioè quale deve essere lo possibile a farli. Non lo so, guarda, non lo so. Pure il Papa ha detto che non bisogna fare figli come conigli, peraltro tempo fa. Cioè, ha ragione, il Papa ha sempre ragione. Adesso quando poi ospito tutti quegli extracomunitari sarò contento di provare. Pensare. Senti, a proposito, ma ti pare, hai visto quanto ha incassato Veronica Lario dalla, ha perso un po', 1,4 milioni al mese, 1,4. Ecco. Ora, io non so quanto è incazzata, ma quello è una delle misure dell'assurdità del processo, dei processi a Berlusconi. Cioè, quale persona al mondo e in Italia ha mai dato quella cifra? Allora è chiaro che c'è una distinzione tra lui e gli altri. No, ne voleva pure tre, ne voleva tre. Cosa dà la prima moglie De Benedetti? Cosa dà la prima moglie? Io voglio sapere. Cioè, se non ci fosse un trattamento, io ho sempre detto che quello che per gli altri non è una responsabilità penale lo diventa per Berlusconi, sarà perché è penale, cioè del pene. Ma non ho mai visto nessuno protestato perché sarà per quello. Tu. Tra l'altro oggi fatelo farlo domani, dai la notizia, fai una verifica di cosa danno i ricchi d'Italia alle loro mogli separate. Vabbè, magari in proporzione. No, ma non è meno ricco De Benedetti, non è meno ricco. Comunque 1,4 milioni al mese, ragazzi, ne voleva tre. Ma allora De Benedetti è il marito di Mita De Benedetti, che è stata anche una mia amica molto vicina. Sì. Sta oggi con la ex moglie di Luigi Donato delle Rose, che è moglie sua. Vabbè, questo che c'è. Quanto dà Mita De Benedetti? Non lo so. Ma non è che voglio polemizzare con te, dico, se non ci fosse un trattamento dispari per lui, avremmo almeno altri 10 miliardari che devono dare 1,4 milioni, che è una cifra enorme. Io credo che quando una moglie... Ma poi che cazzo ci fai con 1,4 milioni al mese? Che no, ci fai? No, credo, ma sai, che una cifra intorno ai 10 milioni al mese, ai 10 mila euro al mese, sì, sarebbe una cifra già fin troppo ragionevole. A voglia, 10 mila... Ma siccome si chiama Berlusconi, deve dare in proporzione del suo nome, ma perché? Sì, ma senti, oggi hanno chiesto 5 anni, hanno chiesto non so quanti anni per la vicenda De Gregorio, della compravendita dei parlamentari. Sempre a lui? Sì, hanno chiesto. Ho detto, io ho scritto a Grasso per dire, ma è possibile mai che una cosa che ha un iter parlamentare evidentissimo, dice parlamentare che questo... Ma pare che abbia pagato 3 milioni Berlusconi però là, a De Gregorio. Sì, ma non li ha pagati per fargli cambiare posizione politica, era già andato nel gruppo misto centrodestra per diventare presidente della Commissione di Difesa, ci sono gli atti. Vabbè, vedremo. Lui, De Gregorio, era già passato, non era un voto contro Prodi, era già contro Prodi. Vabbè, poi vedremo, dai, poi vedremo come finisce. Guardato le carte, l'ho scritto a Grasso, guarda le carte perché... Gli atti parlamentari sono chiarissimi. Lui, per diventare al posto della mia amica Menapace presidente della Commissione, sì, era già passato con Berlusconi. Era già passato dall'altra parte con lo stimolo di Schifani, che gli aveva dato la garanzia dei voti che poteva prendere. Vabbè, poi vedremo come andrà sto processo. Comunque hanno chiesto anni per Berlusconi. Ciao Vittorio. Ciao ragazzi, ciao. Guarda che c'è gente strana in giro, c'è gente strana in giro. Io vorrei un'Europa fondata sul lavoro. E tu come vorresti l'Europa? Ogni giorno alle 14 alle 21.30 Europa 24 ti aiuta a costruirla, informandoti in tempo reale sulla situazione politica, economica e culturale dell'Unione Europea, per essere davvero cittadini d'Europa. In collaborazione con Euronet Plus, il segnale orario vi è offerto da... Proteggi la tua casa. Index isola, impermeabilizza e risana in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it. La Zanzara. All over the world tonight. Feet are hitting the ground. ministro Orlando, dopo la figura di palta, diciamo la verità, se non addirittura figura di merda, di ieri, in cui ha dovuto subire il fatto che Adriano Sofri si è tirato indietro da questa nomina, chiamiamola così, come coordinatore di un tavolo per la riforma della giustizia, in particolare sulla cultura nelle carceri, eccetera, eccetera, dice che non c'era né incarico né una retribuzione. Ma scusa, ma se non c'era né incarico né retribuzione, ma che consulenza a titolo gratuito? Ma ho capito, ma che vuol dire? È chiaro che c'è un incarico. Qualcuno l'ha chiamato Sofri, non è che l'ha chiamato lo Spirito Santo, qualcuno l'ha chiamato al Ministero della Giustizia. Dunque, un incarico c'era, non è che non c'era un incarico. Dai, su. No, no, c'era. Appunto. Meno male, hanno fatto malissimo ritirare il. Ma io non so, per me hanno fatto benissimo e hanno fatto un errore clamoroso a nominare all'inizio Sofri. Questo è il punto fondamentale. Un errore di comunicazione spaventoso. Ragazzi, non c'è bisogno di Sofri, di una persona condannata in via definitiva per riformare le carceri. Ma quale massimi esperti? Ma di che? Ma è occupato sempre della sua vita. Allora, sei a favore di questa roba qua? Ma che campagna criminale state facendo? Ma quale criminale? Ma di che stai parlando? Di cosa? L'unica campagna criminale, è quella uno che state costruendo. State, sulla figura, ma state di a chi? Sofri. Ma che rivolgiti a qualcun altro? Beh, ma che cazzo dici? Tu, ma cosa dici? Le destre, ma le destre che? Ma è pieno di gente di sinistra che conosco che è inorridita davanti a questa cosa. Ma che cazzo non dici? Interessa, infatti, a ma me che allora dici? Ma che dici? Di sbagliano, ma sbagliano questo. Cosa? Sofri uno è una persona che negli anni ha dimostrato. Senti, a me non mi interessa, è una persona conoscenza della materia e quant'altro. Ma cosa vuol dire? È una persona che è stata condannata per essere mandante dell'assassinio di un. Anche, di un commissario, come anche fosse, anche perché fosse, secondo te le sentenze non contano? Le sentenze esiste, non contano, benissimo. Anche, le sentenze no, non ma contano. Contano e come? Ma quella, come sai, quel caso giudiziario lì è molto complesso. Quello, certo, quello è molto complesso. Sì, gli molto altri complesso. No, quello è molto complesso. No, anche quello, altri, ma anche quello è complesso. Però ammettiamo pure, quello ha scontato ragazzi, la sua pena. È stata una cazzata del governo. Non voglio riaprire pena. Il discorso su Sofri. È stata una cazzata del governo, punto. Ma questo lo dici tu. Una cazzata è stata non sostenerlo. Ma è una cazzata spaventosa. Non sostenerlo sotto tutti i punti di vista. Sotto tutti i non punti sostenere di vista. La scelta Orlando sì. Non c'era quindi nessun tipo di consulenza, tantomeno di incarico retribuito, ma continuo a ritenere che ascoltare punti di vista diversi, far partecipare punti di vista diversi a una discussione sia un modo anche per fare dei passi avanti in un sistema che vogliamo migliorare. Ascoltare pareri diversi va benissimo, invita a cena il signor Adriano Sofri, fatti spiegare quello che pensa sui libri in carcere, sull'introduzione della cultura in carcere, eccetera. Ma va benissimo, invita a cena, ma è quale incarico ufficiale? Chi è stato condannato per reati gravi non deve avere nessun rapporto con lo Stato, nessuno. Questa è la mia opinione. È benissimo, ma nessuno gli impedisce di farlo. È una persona che ha fatto un percorso di vita che è testimoniato da quel che ha fatto, no? Sulla questione delle carceri, dei diritti umani, è la persona più titolata. Sì, più titolato. In assoluto. Sì, sicuramente. Che se ne dica, eh? Ah, che devo sentire, guarda. Però capisco che il mainstream. Ma non sia c'è questo. Nessun mainstream, è la logica. È, questo, è la logica. È la logica. È vostro, è la... Avete fatto. Come, ma avete come fatto chi? Avete ma avete costruito chi? Beh, ma di chi parli? Ma che sei? Ma che fai? Il comizio, il militante politico? Avete ma che fai? Avete costruito come il caso avete del mio costruito. Amico Sergio D'Elia. Avete costruito. Ti ricordi il caso di Sergio D'Elia? Altra vergogna. Deputato radicale, vicepresidente della Camera, a seguito di alcune vabbè. Violente campagne di stampa. Sì. Ma perché violente. Non vai in Parlamento invece di rompere i coglioni? Non ma ho Parlamento, io la mia vai in Parlamento, vai in Parlamento invece di fare i comizi. Sergio D'Elia meritava di ricoprire sì. quel ruolo. Magari anche perché no Presidente della Repubblica? Proprio per quel. Perché ma no Presidente sarebbe, della Repubblica? Sarebbe un ottimo Presidente della Repubblica. Presidente però. Della Repubblica, perché Sergio no? D'Elia sia un ottimo Presidente. Ottimo Presidente della Repubblica, ottimo. Certamente. Ah, una figura che ha fatto un percorso di riconciliazione sociale importante, sì. Vabbè. Scontri televisivi, Mario Giordano ormai scatenato nelle trasmissioni contro la De Micheli. La De Micheli prima lettiana, adesso renziana. Per la prima volta in questo 2015 il segno sull'occupazione, sui nuovi posti di lavoro sia finalmente, seppur non ma di che paese state parlando? Positivo. Non avevo la De Micheli, ma di che paese? Ma dove vive? Ma dove vive? Ma lei ci esce qua? Ma ci va in giro nel paese? Ma lo conoscete il paese? Ma di che cazzo di paese state parlando? Beh, anche qui come lotta, l'amico Maione. Giordano utilizza la parola cazzo come piovesse. Come piovesse. Lotta il direttore come lotta. Bene, andiamo a Maurizio Lecco, vai, 800 24 00 24. Un messaggio per il pubblico. Pronto? La mia luce nelle cuffie. Questa è la radio, David. Se parli piano o parli a cazzo mi di senti, cane non si capisce adesso? Maurizio, non mi rivolgevo a te, dai. Ah, mi senti adesso? Sì, ti sento, come no? Sì, buonasera. Niente, volevo intervenire sul discorso dei neocatecumenali. Sì. Ti volevo dare due informazioni principali. Allora, sì, considera che il cammino neocatecumenale non è una setta, è un cammino, sì, riconosciuto dalla Chiesa Cattolica. Sì. Ok? Sì. Per cui non è una setta, è un cammino di fede come i focolarini, come tanti altri, per cui non è una setta. Sì. Primo. Secondo, poi, il discorso che tu dici dei figli, i neocatecumenali di cui ho fatto parte per 10 anni, adesso non ci sono più, ma ho fatto il cammino lungo 10 anni, sì, sono aperti alla vita, per cui non è un discorso di 1, 2, 5 o 10 figli, fanno dei figli fino a che il Signore glieli dà. Io conosco delle famiglie... Come conigli, che hanno... però, come conigli. No, come i conigli, no, aspetta, a un certo punto poi si interrompono. Beh, non è che li credo fanno ad oltranza. Beh, quando giusto? La natura, quando la natura, diciamo, pone fine. No, no, non è la natura, è, diciamo, un discorso di apertura alla vita fino a un certo punto. Vabbè, però allora, io conosco... ma cosa vuoi dire, Maurizio? Hai specificato, no, non dire... è una setta, è un cammino. Benissimo. Bravo, poi? Bravo, questo voglio dire. Vabbè, il discorso di Chicargueio. Chicargueio poi è spagnolo, non è francese. No, è spagnolo, spagnolo, che francese? È spagnolo, ho detto francese. No, no, mi sono sbagliato, ho già detto ieri che era spagnolo. Poi? Ok. Quella cosa che tu hai detto non mi sembra, da quello che ho capito, che sia una cosa rispondente al vero. No, no, è così, è così. Non posso è assicurare così. Che tu l'hai sentito tu? L'hai Guarda. Sentito con le tue orecchie? Certo, l'ho sentito, ho sentito tutto il discorso, no, l'ho ascoltato. No, ho letto una cosa, l'ho sentito. No, diverso. Ho letto e ho sentito. Ci sono tanti casi. Aspetta. Ci sono tanti casi di questo tipo, cioè il femminicidio. Dicono che questa violenza di genere sia causata dalla dualità maschio-femmina, ma per sì. noi non è così. Quest'uomo, si riferisce a un caso di cronaca svizzera, ha sì. ucciso le bambine per un'altra ragione. Se quest'uomo sì. è ateo, nessuno gli conferisce l'essere come persona. Ha solo sì. una moglie che gli dà un ruolo. Tu sei mio marito, e così lui si nutre dell'amore della moglie. Ma se sì. la moglie lo abbandona e se ne va con un'altra donna, tra l'altro non è manco sì. quel caso lì, sì. quest'uomo può fare una scoperta inimmaginabile, perché questa moglie gli toglie il fatto di essere amato, e quando si sperimenta sì. il fatto di non essere amato, allora è l'inferno. Quest'uomo sì, sente però... una morte dentro, aspetta, così sì. profonda che il primo moto è quella di ucciderla. E il secondo sì. modo, poiché il dolore che sente è mistico e terribile, piomba in un buco nero eterno, e allora pensa, come posso far capire a mia moglie il danno che mi ha fatto? Allora uccide i bambini, perché l'inferno esiste. Poi parla dei sociologi che sì, non sono cristiani, sì, non sì. conoscono l'antropologia cristiana. Il problema, aspetta, prima, sì, il problema vai, è che sì. non possiamo vivere senza essere amati prima dalla nostra famiglia, poi dagli amici a scuola, poi dalla fidanzata, infine dalla nostra moglie. Insomma, questa è la sostanza delle cose. Sì, non ha è la ha collegato il femminicidio, cioè l'uccisione e anche l'uccisione dei bambini, sì. a tradimento dalla moglie, eccetera, spiego, eccetera. Il fatto che tu sia cristiano non è che ti impedisca di essere un delinquente, tu puoi essere anche un delinquente cristiano. E allora? Cioè, non è questo il punto. Il fatto di Dio e di Gesù Cristo è una cosa in più, non è una cosa in meno. Cioè, quello che tu hai detto prima non è il fatto che tu sei vicino a Dio, è una cosa che ti aiuta a essere meglio, capito? Che non è una cosa che ti esime da essere un delinquente. Appunto. Non è che se tu sei cristiano non sei un delinquente, capito che voglio dire? Va bene, ho capito. Ciao Maurizio, Paolo, Milano, vai. Paolo, Cani. Dimmi, ciao, Paolo, Cani. Dimmi. Ascolta, io questa cosa che dici tu non la condivido assolutamente. Ma cosa? Cosa? A cosa? Hai esordito la trasmissione dicendo che questi qua, i catecumenali, non si possono sentire, non dicono cose senza senso. A me sembra tanto. No, io parlavo di quello che ha detto questo tizio qua, questo spagnolo molto famoso, pare tra i neocatecumenali, uno dei fondatori, sì, dei leader, che il femminicidio è colpa delle donne che non amano i mariti. Questa è la sostanza. Più o meno ha detto questo, dai, diciamo la verità. No, vabbè, adesso sta entrando nello specifico, perché hai capito. È che una predica farneticante, sono parole farneticanti, punto, sono basta. Con te, non bisogna parlare di filosofia qui. Non puoi nasconderti, tu ce l'hai con la religione, tu ce l'hai contro la Chiesa Cattolica, tu ce l'hai contro chi professa, contro chi crede. Perché? Perché probabilmente sei tu che non credi, sei tu che non potresti mai ma credere c'entra? A queste cose qua. Ma che c'entra? Sì, c'entra Cruciani, perché tu sei fuori moda, cioè il tuo modo di pensare. Vabbè. Ma che c'entra fuori moda? Cosa c'entra fuori moda? Sei del secolo scorso. Io mi sento molto contemporaneo, amico mio. No, tu neghi tutta questa necessità di spiritualità che sente la gente. Poi non ma dico se che se quella... tu senti la necessità di spiritualità, ma fai benissimo a perseguirla. Ma... qui io sto criticando un'altra cosa. A parte il fatto di fare tantissimi figli, quella è una malattia. Giusta, che ti frega, la via giusta probabilmente non è quella dei neocatecumenali, però io non riesco a capire perché tu prendi in giro queste situazioni, poi con lo stesso leggerezza tu inviti tutti gli LGP, gli LGBT, parli di pornografia con tutta questa leggerezza qua. C'è chi ha bisogno di fare delle ricerche più profonde nella propria vita, che possono essere anche sfondo religioso. Ma per carità, va benissimo. A parte io prendo in giro chi mi pare, cioè non è me lo devi dire tu chi dove io prendo in giro, chi non devo prendere in giro. Fermo lì. La tua trasmissione. Fermo. Invesco per i tuoi risparmi. Investi con noi. Vi presenta. State ascoltando un programma offerto da Stazioni di servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene. La Zanzara. Due disgraziati pidocchiosi non solo si divertono, ma li pagano pure per divertirsi. Allora ragazzi, l'altro giorno, a proposito di, ecco, mi è venuto in mente una cosa, di neocatecumenali, no? Dovrebbero usare quello che hanno inventato. Non solo loro, in realtà tutti noi dovremmo usare quello che hanno inventato quattordicenni inglesi, che hanno inventato il profilattico che cambia colore quando entra, io non ci posso credere ancora, quando entra in contatto con infezioni sessualmente trasmissibili. Cioè Parenzo, quando tu vai con il solito travestito lì all'angolo della strada che incontri al quartiere Prati, il quale sicuramente ha come sai non ci sono travestiti al quartiere Prati? Perché che ne sai che non ci sono travestiti al quartiere Prati? Perché ci abito, non so, perché al quartiere Prati non ci sono travestiti. Vuoi scommettere che ti trovo un travestito al quartiere Prati? Vuoi scommettere che ti trovo un travestito al quartiere Prati? No, non è roba. Ma perché? Non ho capito. Guarda che sei incredibilmente snob. Non possono, i travestiti non possono abitare al quartiere Prati a Roma. Di possono, che parli? Ma non li ho visti, diciamo. Ah, roba incredibile, guarda, è incredibile. Forse perché non li frequento, ma non li ho visti. Vabbè, comunque, questi qua si sono inventati un profilattico che cambia colore, evidentemente assumendo, che so, se ti prendi, non dico l'AIDS, no, magari se ti prendi la candida, questo, se ti prendi un'altra malattia sessualmente trasmissibile, la clamidia si trasforma in colore viola. Tutto proprio, no, tutte queste me le stanno sai. Suggerendo adesso. Così se come ti prendi Radio 24 la candida, i mercati finanziari, tu conosci tutte le malattie venere. La sifilide, cose di questo tipo, tutte varie malattie. Profilattico che cambia colore. Quante ne hai prese tu di queste? Nessuna, tua nessuna, storia? Nessuna. Ti assicuro, nessuna. Comunque, il genio è di questi tre ragazzi, 14enni. No. 14enni che volevano creare una protezione sicura senza bisogno di esami, eccetera, eccetera, e hanno vinto un premio per la migliore innovazione nel campo della salute. Cioè, ti metti il preservativo, trombi con qualcuno, e questo preservativo, quando una specie di allarme rosso, cambia colore quando evidentemente stai per prenderti o potrebbe arrivarti addosso qualche malattia infettiva. Il ministro Lorenzin dovrebbe assolutamente dovrebbe introdurre nelle scuole, mutuabili, assolutamente rendere gratuita questa meravigliosa invenzione di tre. Sarebbe importante questo. Ah, assolutamente, ma tu scherzi, ma è così, eh. Io no, sto scherzando per niente. Il sindaco di Mister Bianco, provincia di Catania, con due signori che non so chi sono, dell'Associazione Italiana Carabinieri, incazzati per il fatto di avere definito sbirro un carabiniere che è anche consigliere comunale a Mister Bianco, Associazione Italiana Carabinieri. Pronto? Sì, sindaco? Prego, sono io. Buonasera, come va? Bene. Qui l'Associazione Associazione Carabinieri d'Italia. Buongiorno, buonasera. Come va? Bene. Senta, noi siamo incazzati. Però erroneamente, non c'è ragione di essere incazzati. Non c'è stata nella mia intenzione di offendere assolutamente l'arma dei carabinieri, verso la quale ho sempre nutrito rispetto e stima. fare. Vabbè, ho capito, ma lei ha detto gli sbirri non hanno cosa fare, se ne devono andare, gli sbirri, certo, ci fanno schifo. Certo, ma come, certo? Come, certo? Il comportamento sbirresco di questo consigliere, ma come sbirresco? Non è accettabile. Le passo l'appuntato, le passo l'appuntato, un attimo. Pronto? Sì. Sindaco? Appuntato Cavale al Maggiore, Valenzo, buongiorno. Lo segui, signor Appuntato, prego. Guardi, sono costernato, mareggiato, perché i colori della divisa, il cappello, il cappello, tutto... i colori, quello che hanno fatto nella storia d'Italia. Ha finito? Io le voglio dire. Ho finito, ma sono costernato. Colori, questi colori, queste, sì, divise, queste divise, per me sono sacre. È no, come no, se è lei ci avesse sputato sopra. Io mi riferivo al comportamento di un consigliere, e se fosse stato un avvocato, tutti gli avvocati si dovevano sentire. Guardi, coinvolti, oppure se fosse, guardi, stato un idraulico, ha capito? Guardi, quindi, paragonato a un idraulico l'arma dei carabinieri! È come se c'entra, è anche c'entra un idraulico! Oh santo Dio, ma perché sei così? Ma questo è il punto. È come se per la seconda volta l'arma dei carabinieri, no, che io servo da 34 anni, due mesi e un giorno. Sono sicuro che lei è una persona che è diventato il massimo, ma io ho dato tutto, ho dato questo braccio all'arma. Che le posso fare? Passo il mio comandante di brigata. Mi passi il suo comandante di brigata. Comandante Crux. Oh santo Dio, ma guarda un po'. Sì, il colonnello De Crux, buonasera. Oh, signor colonnello, buonasera. Sono dispiaciuto. Sindaco, facciamo così, sindaco. Cantiamo l'inno italiano insieme, così risolviamo tutto. Ma me mi dici in italiano? Ma io sono stato sotto scorta per anni. Cantiamolo insieme. Signor colonnello. Un attimo solo. Ma che senti? Oh, io mi metto sull'attenti. Io sono sull'attenti, signor colonnello. Mettiamoci tutti sull'attenti. Io sono sull'attenti. Io sono sull'attenti. Appuntato. Eccomi. È una vita che sono sull'attenti. Sì, diciamo la verità, ma cosa c'entra è una vita che sono sull'attenti? Questa io me l'ero dimenticata. È una vita, no, che sono sull'attenti. Beh, stupendo, stupendo. Intendeva. Vabbè, dai, sempre. Sabino da Padova, vai, Sabino. Al servizio, no? Sì, al servizio, al servizio. Comunque, bravi quei due carabinieri, sì. C'è il colonnello là, De Cru, De Frocis, l'altro. Sabino, dimmi. De Crux, no, no, il colonnello. Ho fatto due considerazioni su questa nuova filosofia, teoria, non so, sulla gender. Sì. È permesso. Ma io non so, non esiste la filosofia gender, non esiste. È vero che qualcuno esagera ogni tanto, dice che bisogna togliere i termini i termini madre, padre, e mettere genitore 1, genitore 2. So che il sindaco di Venezia ha fatto ritirare un sacco di libri dalle scuole, neo sindaco di Venezia, non mettono nei libri padre, madre. Padre, madre bisogna metterli. Mettere genitore 1, genitore 2 è una cazzata, e lo dico io che sono a favore del matrimonio gay, che sono a favore dell'adozione. Nei libri ci deve essere scritto il padre e la madre. Ma non volevo. Poi ognuno insegna ai propri figli che cosa significa i gay, i froci, il matrimonio omosessuale. Ognuno lo insegna a casa, no, non c'è bisogno di maestri. Problema. Dimmi. Posso fare allora intanto una precisazione, un consiglio, un apprezzamento per Parenzo? Ma tu puoi fare quello che vuoi, Sabì. Allora, voi siete una bellissima coppia. È chiaro che il gioco delle parti è evidente. Lui fa la parte del cretino. Ma non c'è gioco, è tutto naturale. Ci sono idee, cosa l'hai sconosciuta? Se non parla così bene, la gente crederà che sei cretino veramente. Questo volevo raccomandargli. Ci sono idee, capito? Non gioco. Vabbè, dai, idee, allora, pensiero, Sabino, allora, cosa che lei non ha. Allora, non c'è, posso solo parlare pensiero, sulla gender? Dimmi, la gender. Parla, vai Sabino, dimmi. Allora, io mi chiedevo, sì, se lo spirito, se ho ben capito, è quello di evitare ogni costrizione, lasciare libero comunque ogni pulsione, ogni sentimento, ogni proprio modo di sentire. Se uno fosse portato all'amore per più donne, non sarebbe in diritto di chiedere il riconoscimento della poligamia? Non ho capito, avesse, ecco, una sciocchezza. No, non ho capito, spiegami Sabino. No, la sciocchezza, il cretino continua a farlo, ma non è una sciocchezza colossale. Cioè, tu stai dicendo che di questo passo, se si ammettono, che ne so, le pulsioni più personali. Se si ammette tutto, si può arrivare anche alla poligamia, dici. Certo. Chi l'ha detto? È una puttanata. E tu sei un imbecille, sei un cretino, come te lo devo dire? Capra, come dire per sgar... Sì, certo. Sei un coglione, perché offendere le persone? Deficiente. Ma no, ma non ti sto dicendo per quello che dici, non tu. Se per quello che dici, per quello che dici. No, proprio lui. Ho capito, ma come dico io, di conseguenza capra sarei io. Senti, facciamo una cosa, va fatti incuare, vai. Ma che c'entra adesso, Sabino? Stai tranquillo, stai calmo. Richiamami sto Sabino, dai, Jacopo, forse sono stato troppo duro, ma basta dire che se uno ammette il matrimonio omosessuale o il matrimonio gay si arriva alla poligamia o si arriva alla pedofilia, dai, ma su, ma basta con queste storie. Sabino, richiamalo, dai, Jacopo Prato. Pronto, Susciani? Dimmi. Sì, buonasera, salve. Senta, io ho avuto l'occasione di ascoltare diverse volte Chico Arguello. Ancora così? Vivo. Ma che cazzo lo ascolta sto Chico? Ma andatevi a ascoltare un concerto, andate al cinema, scusi, no Chico Arguello. Io sarò libero di ascoltare Chico Arguello. Comunque, vabbè, tu a te piace ascoltare Chico Arguello? Vabbè, d'accordo, per carità. Ci sono tante stranezze nella vita, uno ascolta Chico Arguello. Va bene, ottimo, stupendo, benissimo. Scusi, lei lascia Parenzo accanto, io potrò andare a ascoltare. Questo è vero, anche su questo non ha torto. Vabbè, allora Jacopo, dimmi. Cioè, e le volevo dire che di tutte le stronzate che può dire, che ha detto durante questi anni in cui lui, quella dell'altra settimana non mi sembra delle peggiori. Ma io non lo so che altre stronzate ha detto. Poi, sì, vabbè, ha detto, se lei, non entriamo se nella lei, dimmi. Se lei dopo vuole sfruttare tutta questa onda per fare audience, perché lei è un po' come Scilipoti, cioè lei va dove c'è. Scilipoti veramente so che adesso ha presentato un disegno di legge per fare un casino, no, un casino in Sicilia, cioè perché lei va a cercare la notizia. Ma che dove c'entra Scilipoti? Dove... Ma Scilipoti ormai è scomparso, non esiste partito, più, non le... è un ologramma. Cacca, nel senso che cambio partito. Sì, come Scilipoti, lei è, cioè lei va dove c'è vento, dove c'è polemica. Ma io vado dove c'è la polemica, è il mestiere mio, amico mio. Dai, Sabino, è tornato Sabino. Jacopo, è una puttanata quello che hai detto. Dai, Sabino, dimmi. Sabino, caro mio, no, non ti volevo, non ti volevo offendere. No, non ti, no, no, non ti volevo offendere. Non ti volevo. Volevo dire, senza essere troppo superficiali, è chiaro che all'inizio può sembrare una conseguenza esasperata, però. Se uno leggesse almeno quelle che circolano, il programma di quelle che per esempio è previsto educazione sessuale dalla scuola, addirittura sì, dalla è vero, ci sono alcuni documenti che ci sono alcuni documenti, amico mio, ci sono alcuni documenti che girano sicuramente ridicoli sul fatto che bisogna fare educazione sessuale a scuola quando uno è piccolo, insegnare come ci si masturba e queste stronzate qua. E queste cose qui prodotte dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Ieri era una trasmissione radiofonica, io ho sentito un confronto. Quale trasmissione radiofonica? Quale trasmissione? Con il responsabile della manifestazione praticamente. Che trasmissione era? Che trasmissione? Bianco e nero. Ieri pomeriggio. Ma tu perché ascolti questa trasmissione del mio amico Loguen? Devi ascoltare sempre la Zanzara. Perché arriva la tua ora, ascolto gli altri. Ah, prima di arrivare certo, alla Zanzara, sì, ho capito. Ma questo è buono, questo vorrebbe. Poi appena inizia la Zanzara cambi subito. Allora, se io non ti ripeto, se vai a risentire, loro lo davano come dato di fatto questo, non lo negavano. Tant'è che uno era molto a favore, l'altro chiaramente era molto contrario. A che cosa? Ma uno vede queste cose, questa assoluta libertà di tutto, e chi arriva a queste conseguenze poi? Ma quale conseguenze? Ma le conseguenze non sono né la pedofilia né la cosa, quella ma che perché dici. Perché no, se uno deve essere la sua pulsione ed è ritenuto libero in diritto di esercitarla questa pulsione. Ma ci sono i reati, la pedofilia è un reato, pure la cosa è un reato. Che ma cos'è? Adesso, ma siccome stanno facendo ogni ma morano, che fino adesso sarà reato, sempre un reato, come sarà sempre un reato se tu sposi quattro mogli, cioè non sarà ammesso sposare 4-5 mogli. Mogli, dai. Però anche ma che un te reato... lo auguri, dai, su, è vabbè, ridicolo. Vabbè. Non è che ammettere il matrimonio gay o ammettere l'adozione gay significa aprire le strade a tutto il resto. Non diciamo stronzate, dai. Non mi pare che in Spagna ci siano aumentati i casi di pedofilia oppure sia stata introdotta la pedofilia da quando c'è il matrimonio gay. Non diciamo stronzate, Sabino, sennò veramente mi incazzo di nuovo. Follia pura. Dai, ciao. La Zanzara. È con noi Filippo Facci, buonasera, come andiamo? Buonasera, andiamo bene. Anche come? Se anche la se... telefonata mi è arrivata tra il primo e il dolce, quindi non vedo l'ora di finirla. Scusi, a che ora mangi, Filippo? Scusami, alle 19:40. Io sono nordico, io mangerei alle 7. Cioè, è già un compromesso mangiare alle 7:30. Quindi... Tra il primo e il dolce. Ma come? Come tra il secondo e tra il. Non ho capito, tra che cosa? Già... Scusa, a che ora pranzi? A mezzogiorno? Sì, esatto, oggi meno 10. E a che ora ti cambi il catetere? Alle 8 allora? Metà del mondo del nord, il più evoluto, sì. Mangia queste ore qua. Sì, nelle baite probabilmente, in montagna, vabbè, sì, certo. Tu sei uno spagnolo, sei capito quella roba lì. Sì, bravo, esatto. Io mangio tardissimo, vado a letto tardissimo, dormo poco, purtroppo, e tra poco morirò. Questo è il mio, fra poco morirò. Questo di qualche... può essere? Tra poco creperò, sì. Credo di sì, credo di sì. Adesso secondo me non segno. Camperò molto. Speriamo che mia figlia non stia ascoltando, non credo, perché non gli fanno ascoltare la radio, ma non credo che camperò. Ascoltare questo programma. Sembra una telefonata interessante quella che stiamo. Ma scusa, perché è interessante solo sono solo le cose serie, cioè no, ci sono non anche c'è nessuno non c'è, no, vabbè. Allora io voglio in genere la morte viene reputata. E cosa hai mangiato oggi? Cosa hai mangiato oggi? Questa sera? Sì, cosa stai mangiando? Sì. Sì. La allora, cena di ho Facci. Ho mangiato del couscous vegetariano. Sì. Couscous, bravo. E basta. Il solito dolce, diete. Solito sono dolce diete. Tuo, gelato profusione, no? Haagen-Dazs, no, Haagen-Dazs a profusione. Uno yogurt di soia. Vabbè, ma che sei? Con vabbè, dentro ma, che sei? Ma mi stai dipingendo un altro Facci, un Facci che fa la dieta, non si è mai visto. Sei ingrassato? Da un mese e passa. Sei ingrassato? Eri ingrassato di quanto? No, è che sto facendo una specie di preparazione atletica. E che devi fare? E sto facendo una cosa sulle montagne. Ah certo, fai reality Everest, no, Bianco, come si chiama? Sì, Monte Bianco. Bravissimo, sì, Monte, Bianco. Monte Bianco. Sì, sì, sì, cioè, sì. E la notizia è questa, che Filippo Facci, prestigioso giornalista, farà questa scalata del Monte Bianco. Cioè. Parteciperà a una specie di reality, non so su quale rete, che si chiama Rai 2, te lo dico io. Monte Bianco, e scusa, che cazzo farai in questo? Io sono invidiosissimo, te lo dico subito, sono molto invidioso di questa cosa. Ma secondo me fai bene essere invidioso, perché come me l'hanno presentato una figata. Io allora sono appassionatissimo di montagna. Ma veramente non ho mai visto montagna, però comunque vabbè. Però lo facevo da giovanissimo. Ah, da giovanissimo. Adesso leggo solo i libri, guardo i DVD, che è come essere appassionati di donne e farsi insomma le seghe sul porno. Ah, sì, certo. Adesso ho trovato la scusa per fare una roba per cui faccio 20 giorni con una guida alpina personale. Sì. E dormendo, vabbè, in tenda con questo qua. Sì. E facendo i ponti tibetani. Ferrate, e che bisogna fare, no? Che bisogna resistere, che bisogna fare? Bisogna Te lo sto dicendo, i ponti tibetani, le ferrate, le discese in corda doppia, fare ciò che succede in altura sulle montagne. Beh, stupendo. Ma si ammazza di fatica. Ma è una gara? E sono singole gare a eliminazione diretta. Bah, stupendo. Sono veramente, veramente invidioso. Veramente invidioso. Non lo potrei fare, ovviamente, perché faccio la radio. Tu, per fortuna, fai un altro mestiere. Però ho preso le ferie per farlo. Ma sì, le ferie. Fai il cazzo che ti pare. Le ferie, dai. Comunque, vabbè, io voglio capire una cosa. Dunque, protagonista di un reality. Finalmente, forse hai trovato la tua non dimensione. È un reality. Perché... Vabbè, quello che è una prova. È una roba che ti filmano mentre fai ste cose. Vabbè, ma è tipo basta, cosa, no? Dai. È tipo Pechino Express. Pechino Express, esatto. Non devo interagire, non devo parlare, non devo socializzare, quindi per me va bene. Beh, ragazzi, cioè, forse hai trovato la tua dimensione televisiva, non più conduttore, infatti, non più ospite, ma solo su una montagna. Da solo sulla montagna. Ah, stupendo, questa cosa qui è stupenda. D'altra parte, amico mio, così è la vita, cioè, così va la vita. Infatti. E dunque, per questo stai facendo una specie, come dire, di cura del corpo, no? Se non sbaglio, questo è. Sto facendo, allora, sono andato per la prima volta, lo sport l'ho sempre fatto. Da però un dietologo? Per la prima volta, no, da un fisioterapista, perché mi faceva male tutto da sempre per questione di vecchiaia pura. Sì. E ho scoperto. Cioè, da un dietologo sei andato? No, dietologo no. Dietologo da chi no. sei andato? Da un fisioterapista. Da un fisioterapista. Da un geriatra. Quanti chili devi perdere per fare questa puttanata? Scusami. E poi sto andando per puttane. Ma scusa, c'è figa in questo reality o no? Non ne ho idea, perché non ci dicono i concorrenti. Beh, ci sarà sicuramente qualche. Sono l'unico di cui si è scivolato fuori il nome. L'unico è più la conduttrice. E chi è? Balivo, però io non la vedo. Ah, beh, Caterina, come no? Certo, beh, come cioè, Balivo, molto però. Bella, sposatissima, fidanzatissima, signor Brera. Adesso non si può dire nulla, per carità. Però, insomma, no, io voglio sapere se c'è intorno qualche cosa che ti possa rallegrare un po' la vita. Le mucche ci saranno, le mucche. Scenda la sera. Ma sì, dai, su, o no? Auspico. Lo scopriremo solo vivendo. Ci siano dei training, insomma, così, laboratorio in altura. Per, ma almeno se guadagna vabbè. O no? Poco. No, è in discussione. È in discussione. Però è in giornale, cioè io sono un giornalista, quindi non posso guadagnare niente, anzi dovrò anche mettermi lo scotch sui loghi delle... lo so, insomma, sì, sui loghi. Quelle cose lì, no? Quelle cose lì. Ho già risolto. Vabbè. Perché stiamo parlando di questo? Perché è interessantissimo. È interessantissimo. Era bello. Aspetta. Dobbiamo chiamarci a parte. Aspetta. Alla radio. Let's go! Let's go! Ma sta diventando quasi vegano, Filippo Facci, che ci ha rivelato che parteciperà a questo reality, chiamiamolo, che questa prova in montagna a 20 giorni, Monte Bianco su Rai 2. Ma un po' chi se ne frega, però interessante perché le prove fisiche sono sempre interessanti. Volevo capire della vicenda Sofri, cosa ne pensavi, se sei dalla parte di Parenzo o dalla parte del sottoscritto. Io dico che Parenzo dice che era una grande scelta, è una scelta, il governo una ha fatto male, perfetta, e il governo ha fatto male a abbandonarla. Io dico che è stata una cazzata del governo la scelta, perché una persona condannata non può essere nominata dal governo a fare il consulente sulle carceri, e poi anche una cazzata, doppia cazzata, quello di non avere tenuto il punto, quello sì. Allora, non ci crederete, ma avete ragione tutte e due. Nel vabbè, senso che, no, sul serio, la cosa non era sto incarico, era una consulentina del tubo, e quindi mi sembra anche normale che si richieda qualcuno di esperienza. D'altro canto, cioè tu adesso non c'è italiano che non sapesse che sarebbe venuto fuori un casino della Madonna, però non certo. Fare è questione di inopportunità, ma infatti è questo il punto, dai. Alla fine non no. È che l'assassino, perché in Italia comunque c'è lui la pena, piaccia o meno, la insomma, come si dice, la scontata. Sì, ok, ho capito, però se l'ha scontato la pena, però, si può chiedere di non avere un incarico da parte del governo che riguarda le carceri, oppure no? Oppure l'unico esperto di carceri si chiama Adriano Sofri in Italia? Cioè, no, però ci sono dei precedenti interessanti, per esempio il presidente dell'associazione Nessuno Tocchi Caino, sì, lo so, Delia, sì. Delia è... aspetta, fermo lì che torniamo, fermo. Quanto siete stupidi, siete proprio insopportabili. La Zanzara. Ottima trasmissione, sempre la migliore. Fedez ancora scatenato contro Filippo Facci. Finché mi dà dell'illetterato Filippo Facci, celebre per aver scritto un libro sulle dimensioni del suo pene, direi che non c'è da preoccuparsi. Capito, Filippo? Sì, ho capito. Hai scritto un libro sulle dimensioni, a me non risulta, per carità, che hai scritto un libro sulle dimensioni del tuo pene. Sì. No, ma come dire, non lo so, che Leopardi, quando ho finito, ho fatto una poesia su una siepe, una roba di giardinaggio. Cioè, lo so che non è un paragone, è un paragone un po' presuntuoso, però che devo commentare? Dai, c'è un ragazzetto di 25 anni che si chiama Fedez, non è che adesso io qualsiasi cazzata dice, cioè sempre, lo vada a inseguire per ribattere. No, ribattere no. Voglio dire, siccome uno che dice che hai scritto un libro, se non mi può dare dell'illetterato. Tu gli hai dato dell'illetterato? Sì, sì. Probabilmente sì. Sì. Beh, sì, parla male, fa rime dal punto di vista anche musicale molto, ma molto discutibili. Insomma, è sufficiente, ecco. Vabbè, comunque gli ha dato l'illetterato, lui ti dice, cioè, non mi può dare dell'illetterato Facci che ha scritto un libro sulle dimensioni del suo pene. Ma scusa, ma non ci sono dentro queste storie sulle dimensioni del tuo pene, dentro il libro che hai scritto? Io ho scritto un libro che sull'amore, sulle cose, amore, sesso, sì, successo. Non si parla di dimensioni. La somma di una serie di rubriche che sono uscite su alcuni settimanali femminili ad ampissima diffusione, dove non è che ho parlato delle dimensioni del mio pene tutti i giorni. Ma nemmeno una volta, cioè, forse, ma che devo commentare? Cioè, ma no, non mi ricordo. Sì, no, ma non hai mai parlato. Tu non hai mai parlato della dimensione del tuo pene, Filippo? Dai, diciamo, lo saprà se la parla. Ma credo che non abbia mai parlato. Ma non è. No, io non ho mai parlato di. No, non ho parlato della dimensione del mio pene. fine. È un libro di fiction, quindi voglio dire. No, non ho parlato. Non hai parlato, non hai parlato. Ma comunque ne parlo. Però fatemi, posso dirvi una cosa, io non ce la faccio più con sto Fedez. Da quando da quando ho scritto un articolo su Libero, dove peraltro mi dichiaravo un fallito perché alla mia bella età ero costretto a scrivere di questo cazzo di 25enne illetterato, sì. E da qua, cioè, giuro, non sto scherzando, c'è la gente che mi ferma per strada per farmi complimenti, cioè dopo una vita di querele, vabbè, inchieste. Ma che inchieste? Sì, no, l'hai fatta. No, sto dicendo. Ho fatto tutto io giornalisticamente nella vita. Poi, cioè, vado a Ragusa a presentare una cosa, mi incontro una vecchia che mi fa: ah, lei faccio un bellissimo articolo su Facebook. Vado a Pordenone. Vabbè, fate una ragione. Montanaro, che dico, questo qua manco c'ha la televisione, mi fa: ah, bellissimo l'articolo su Fed, lei sì che è coraggioso perché ho scritto un articolo su sto brufoloso, su pitturato colorato qua, cioè, è finito il mestiere, io sono ancora troppo giovane, voglio la pensione. No, ma ho capito, ma arrenditi di fronte al fatto che se fai una polemica su Fedez, chiamandolo pitturato colorato, sì, e cioè ragazzino illetterato di 25 anni, eccetera, eccetera, contano più queste cose qua piuttosto che ne so, un'inchiesta sul Tribunale di Milano, un'inchiesta su Fracazzo da Velletri. Bisogna vedere per chi, sicuramente per il suo pubblico, ma vedi, il problema è questo qua, c'è un pubblico, non tutto, ma una parte del pubblico così scemo da ascoltare queste cose e quindi ascoltare in toto le cose che dice Fedez. Mm. Dal momento in cui Fedez dicesse le cose che ha detto quando sono venuti i Black Bloc a Milano, allora diventa un problema, perché è lui che sconfina nel mondo dell'attualità della politica, non io che vado nel suo mondo di sottosviluppati a invaderlo e a parlare. Per che cui, fine farà Fedez, secondo te? Che fine farà? Ma che fine? L'ha già fatta alla fine. Cioè? Ma è un cantante per bambine che fa il rapper, non fa nessuna fine, va avanti, ha i suoi problemi, perché mi hanno detto anche che ha dovuto annullare delle date al sud. E perché? Però niente. Perché ha dovuto annullare delle date al sud? Scusa. Perché la gente non c'erano abbastanza prenotazioni. Però non ha venduto biglietti, dici? Così dice, dicono, dice lui, io non lo so. Vabbè, ti sei rotto i coglioni, ti sei rotto i coglioni di parlare di Fedez. In realtà poi invece ti piace polemizzare con Fedez. Ti piace, dai, ti piace polemizzare con Fedez. A proposito, no, mi piace, mi chiedono, io mi non polemizzo, non lo conosco, non so chi è. Mi chiedono, scusa, delle cazzate che tanti giovani ascoltano, io lo denuncio, non denuncio nel senso denuncio le cazzate, no, che dice. Figuriamoci, però denuncio. Lui, che ne so, è un tamarro di Rozzano, dai ragazzi. Beh, Tamar è uno che fa il suo mestiere, un cantante, è uno che fa il suo mestiere, dai. Il suo mestiere è fare il tamarro. Fa il suo mestiere, fa l'uomo di spettacolo, va X Factor, invitato qua e là. Certo, sì, non è che se parla di politica sto lì ad ascoltare come fosse un oracolo. Perché, scusa? Perché no? Perché io no, se tu ascolti, ascolti. Io rido anche di come fa il suo mestiere, però. Ma no, ma quello chi se lì non mi. Sì, dai, avevamo una certa immagine del rapper una volta, adesso ma sì, vabbè, qua, ma che sembra il Ken della Mattel che querela tutti, che ma vienimi sotto casa a cercare, glielo già detto, sì, guarda, sì, facciamo sì. A cazzotti Fedez, la querela, no, la querela, mamma effettivamente mia. È ridicola, la querela. Senti, a proposito, ti sono piaciute ti è piaciuto l'esordio di Corona dopo il carcere, eh? Cioè quello che ha fatto dopo, i due selfie, servizio su chi col figlio? Confesso di non essere informatissimo. Ha fatto un po' visto, di selfie, visto, e ha fatto un servizio su chi col figlio subito, cotto e mangiato. Ma, insomma, diciamo che non è che mi siano piaciuti o non piaciuti. Fanno parte della stessa strategia che bene o male l'ha portato fuori fisicamente dal carcere, anche se rimane in detenzione, ci rimarrà per. Ragazzi, ma non bisognerebbe in alcuni casi, io lo dico veramente con grande rispetto, fare un po' di silenzio. Cioè, sei uscito in fin dei conti dopo meno di 3 anni, e in realtà, e poi non ci mettiamo qui a discutere della condanna, eri stato condannato a poco meno di 13 o 14, sì. Non mi ricordo quanti erano. Sì, uno esce ed è una cosa anomala. Lo vogliamo dire che è una cosa anomala rispetto a qualsiasi altro paese? Ieri leggevo sul giornale un articolo incredibile, c'è un tizio, allora, che è stato sì, è condannato a 44 anni. 44 allora, anni di galera. Uscito, aspetta, 44 anni. Vabbè, sì, d'accordo, quello l'hai scritto e va bene. Cioè, c'è un tizio che è stato condannato a 44 anni di galera, e dico 44 anni per avere occultato dei cadaveri, ucciso, eccetera. Ancora non è definitiva ed è in libertà. Cioè, l'Italia è anche questa, a Viareggio questo tizio qua. Allora io dico una cosa. Siccome questa situazione qui è anomala comunque, e non ci mettiamo a discutere del fatto che è anomala, uno esce dalla galera, ma non comincia a fare i serpi al servizio su chi? Un periodo di silenzio minimo, minimo periodo di silenzio, 2-3 mesi, poi fate il servizio, fai la cosa, perché... E poi sì, secondo me le foto dentro... Noi giudichiamo dal nostro punto di vista. Però dentro un centro che alla fine è un centro di detenzione, perché è come se fosse un carcere, sì, solo che tu fai là, dovrebbero essere anche, io dico, proibite le fotografie. Cioè, proibite le foto, divulgare foto all'interno dovrebbe essere proibito, diciamo la verità. Invece no, vediamo la palestra e vediamo quello con gli amici e vediamo lui con la madre. Senti, col figlio. Io non ti do torto, l'unica cosa che posso dire è, come dire, fare un'opera di comprensione e dire che probabilmente è talmente vera la sindrome di Stoccolma che gli è venuta a questo ragazzo, che probabilmente adesso stiamo assistendo con gli strumenti di cui si è sempre dotato come posso dire, di un'azione uguale contraria, cioè sta eccedendo in senso contrario e vuole dimostrare al mondo, terrorizzato come è, sì, l'ipotesi di tornare dietro le sbarre, vuole dimostrare al mondo di essere cambiato, di essere diverso. Ma sì, qua, diverso, non mi pare. C'è... La palestra non mi pare la cosa di essere diverso, il figlio e la madre sì, la palestra no, vabbè, comunque, sì, vedremo. Sì, beh, probabilmente lui rimarrebbe irruente nel bene e nel male qualsiasi cosa facesse, questo è lui, non è che gli ha poi lobotomizzare. Cui... Grazie Filippo, a presto. Prego, ciao, prego, ciao, prego. Ciao. Ragazzi, vi ho accennato a un caso che è incredibile, eh? Si chiama Massimo Remorini a Viareggio. Massimo Remorini a Viareggio, accusato di duplice omicidio, condannato a 44 anni, ma non c'è sentenza ancora definitiva. Omicidi, distruzione di cadavere, rapina, 44 anni, libero. Questa è l'Italia, libero, cazzo, libero. Gabriella, provincia di Pescara, vai. Buonasera. Buonasera, dottor. Dica. No, io faccio un passo indietro. Per i neocatecumenali. Sì, abbassi la radio però, abbassa la radio, Gabriella. Che vuoi dire dei neocatecumenali? Dimmi. La radio è spenta. Sì, vai, dimmi, Gabriella. Niente, io ho avuto un rapporto per ben 7 anni con un neocatecumenale. Sì, allora? Con 9 figli. E allora? Come? Allora vada veloce, mi dica. Le dico velocemente. Dovrei scrivere un libro lunghissimo. Mi riassuma, che cosa ha visto? Suoi sti 9 figli o no? Di chi sono sti 9 figli? Suoi. È lei che faceva l'amante, non ho capito. Sì. Lei faceva l'amante di sti neocatecumenali, faceva... Ma non si può generalizzare. Faceva l'amante di uno di questi qua. Adesso lei ce lo sta dicendo, sì, ci dobbiamo credere. Affittava appartamenti, abbiamo avuto appartamenti insieme, tante altre cose. Peccatrice pure lei, signora, peccatrice. Molto, molto. Peccatrice. Questo... Trombava col neocatecumenale, peccatrice. Sì, non sappiamo se è vero, ma insomma... Vabbè. Mettiamo che no, è vero, ma io a mio marito questo l'avevo detto. Ma capito, lei era sposata pure lei? Sì. E lei ha detto, una vabbè, figlia. Ragazzi, ma non ci posso credere. Lei è sposata, una figlia andava col neocatecumenale che aveva 9 figli. Ma di che stava a parlare? Ma che mondo è? Cioè, un mondo degradatissimo. Non lo so, ci sono cascata. Vabbè, allora? Io sono un insegnante. No, ma è tutto l'insieme che è degradato. Beh, è una cosa degradatissima. Comunque. Allora? Niente, purtroppo sono caduta. Io ho sofferto. Sì. Sono stata menata. Menata da chi? Dal neocatecumenale? Là, dal neocatecumene? Sì. Vabbè, quello può essere, non è che bisogna essere per forza. Capelli strappati. Poi? Poi? Vabbè, quello succede. Può succedere. Mi ha morso una mano, sono andata, sono scappata. Perché c'era ma questo palestra... che c'entra con la religione, con quello in cui crede questo tizio? Scusi, questo può succedere anche a prescindere dalla religione, dal fatto che fosse un neocatecumeno, no? Sì. Oppure lei pensa che non sono una setta di violenti? No, questa è una setta da eliminare. Come da eliminare? Completamente. Perché? Perché lei dice, signora? Perché fanno... Cioè, io mi sono ritrovata a chiesa più volte. Loro... Non però, signora, mi scusi se glielo dico, mi pare che però anche lei non ci sta proprio tutta. cioè sposata con una figlia, e va bene. Riferisce al marito e alla figlia che ha una relazione con un signore con 7 figli. No, se fa menare e strappa i capelli, amica mia, anche lei proprio non sta al toppissimo, scusi, con rispetto lo anche dico, lei qualche però, peccatuccio l'avrà commesso, o no? Ma peccatuccio, non lo so, insomma. Va a letto con neocatecumeno con 9 figli, lei pure è sposata con una figlia. E l'ha detto pure al marito e alla figlia. Va a messa, dai, su, dai, io capisco le contraddizioni della vita. Però. Cioè, scusi, lei mi dice, signora, che è stata un po' plagiata? Vabbè, capito, aspetta un attimo, c'è la pubblicità, però o parli bene o ci spieghi, oppure non è che possiamo stare qui ad ascoltare, come dire, no? Anzi, a non ascoltare. Ormai è tutto degradato. La Zanzara. Mi piace un mondo così? A me fa cagare un mondo così. Un mondo così fa cagare. Radio Padania. Poi torniamo con la signora Gabriella. Radio Padania. Servi di Roma fuori, senza dubbi neri, pensamenti. Padania bella e libera, guarda avanti. Servi di Roma fuori. Oh, un ascoltatore sui gender, un ascoltatore su questa puttanata. Ah, mancava, mancava. Aspetta, un ascoltatore di Radio Padania. Mi preoccupa questa storia del gender, di quegli educatori che potranno toccare i nostri bambini. Cioè, sono tutti educatori di sinistra, tutta roba che viene dalla sinistra, quella lì. Fare i pedofili con i nostri bambini piccolini, per legge, senza nemmeno andare in galera. Ma dove sono sti pedofili? Di pedofili di sinistra, educatori di sinistra, pedofili coi bambini. Ma guarda che quella è gente. Io però li adoro questi qua. Senti quest'altro su Parenzo. Cioè su di te. Tu adesso sei un maschietto, questo pomeriggio fai la femminuccia e questa sera magari diventi un trans. Nutro un tanto disprezzo per il signor Parenzo. Evidentemente lui li conosce bene quei cessi pubblici lordi, perché probabilmente è un frequentatore, no? I cessi pubblici lordi. Non so se la nonnina, la nonnina padana. Non so se è nonnina, sembra padana. Senti quest'altro. Io la immagino col fucile alla finestra, chiusa in questa casa del nord. No, ma quella era quella Nebbia, di Paolo, con una mano sul fucile e l'altra che muove la polenta concia, così muove ma la polenta. Ma perché queste stronzate? Un bel bicchiere di vino rosso e il telefono vicino, chiama la radio. Proprio! Sono Adelina, Radio Padania. Ma rispetta gli ascoltatori, via dai. Via i rom, pum, poi lancia con il fucile, no? Fucile, pum, poi zitto, fucile aspetta, di vino aspetta. E mescola la polenta. Aspetta, dai. Sfonda il muro. Vedi proprio dai connotati del viso quanto acrimonio, quanta cattiveria. Cioè lui esplode proprio di odio verso la Lega. Gli manca solo che la bava sulla bocca, guarda, è un elemento che io lo disprezzo, ma lo disprezzo, è una brutta persona. Guardavamo. Beh, questo è che tu esprimi odio con la bava alla bocca, è vero, però nei confronti della Lega, dai, è vero. Odio nei confronti sì, di sì, sì, sei avvelenato. Ho disprezzo politico. Aspetta. Ho disprezzo politico. Aspetta, no, senti, no. Senti come prosegue la signora. Senti. Guardavamo. L'altro è diverso comunque, pur essendo contrario all'ideale della Lega, però si esprime in maniera più soft, più. E invece il Parenzo è da disprezzare, quell'elemento lì. Guardavamo. No, ma ammazzato. Mi ha ammazzato. Senza dubbi neri, pensamenti. Padania bella e libera. Allora, questi buonisti, vogliamoci bene, sì, cioè, sì, fanno venire gli immigrati e poi li lasciano sotto i ponti. Io li squaglierei nell'acido. Fai vedere le tue braccia possenti. A chi ti vuole? Mi hanno rubato la macchina, mi hanno rubato la moto. Avevo vicino un accampamento di zingari. Io quando io che li ho avuti vicino, penso molto spesso al lanciafiamme. E il Nabucco salirà alto nel cielo e ti cullerà. Il lanciafiamme. E poi torna a bomba il signor Barino, conduttore di Radio Padania, sulla questione dei gay. Servi di Roma fuori. E la checca invece che va in giro col culo di fuori in centro Roma sbaciucchiando il suo lui e magari proponendo anche che dopo i matrimoni gay noi gli affidiamo un bambino? Col cazzo! Cioè, capito che c'entra le checche vanno in giro col culo di fuori nulla. E il bambino affidato. No, a me piace il linguaggio stupendo. Evocativo che usano la Dio Padania. No, quello cioè, invece a me piace, il linguaggio diretto. Diretto a me piace. Linguaggio evocativo. No, linguaggio diretto sempre... a me piace, quello mi piace, dai. Guida il popolo. Paolo da Pordenone, vai. Ah no, Gabriella. Paolo, allora, Gabriella, Paolo Udine. Chiudiamo questo discorso, dai, dimmi. Sono ancora qui. Che ti hanno fatto a te? Tu hai avuto sta storia con questo neocatecumeno. Tutte e due eravate però nel peccato, ambedue nel peccato, amica mia. Ma certamente. Certamente. Questo non ne ho dubbio. E allora? Che ti hanno fatto? Che ti ha fatto? Ti picchiava, eccetera, eccetera. Poi? Mi ha picchiato, mi ha strappato ciocche di capelli. Vabbè, l'hai denunciato o no? L'hai denunciato o no? A sangue. No, non l'ho denunciato, lo sa perché? Perché? Dico io lo rovino, ha 9 figli. E beh, ma che c'entra? T'ha picchiato, hai fatto male a non denunciarla, amica mia. T'ha morso, mi hai detto, t'ha fatto uscire il sangue, non so che altro t'ha fatto. No, mi ha mangiato una mano. Ma come ti ha mangiato una mano intera? Che vuol dire? Senta, mi ha ficcato tutte le i denti in una mano. Sì. E io sono scappata. Sì. Dai muratori che stavano costruendo la nostra palestra. E allora loro l'hanno bloccato. Ma siamo, siamo a livelli di barbarie qui. Cioè, ma non c'è nulla che torna in questa storia. È una siamo cosa a livelli di barbarie. Scusa, Gabriella, ma questo sta praticamente quasi mangiato una mano e tu non l'hai denunciato. Questo neocatecumeno, posto che sia tutto vero. No. Non l'hai denunciato. No. Poi allora, che altro è successo? Scusami, scusa, però scusami, Gabriella. Ma no, posso... ma fatti dire cos'altro è successo? Perché mi sembra tutto talmente straordinario. Che è successo in più poi? È arrivata anche una suorina. Che è successo? Ecco, no, andiamo avanti perché ha più minacciato di questo... mia figlia e mi ha detto se mi fossi permessa di lasciarlo sì. Lui mi avrebbe mandato su una sedia a rotelle. Chi questo neocatecumeno? Sempre il catecumeno. E poi altre cose di questi neocatecumeni. Guardi, è una storia che è durata 7 anni. Sì, ho capito, per Gabriella. Per liberarmi. Sì. Sì. Ma che facevano questi neocatecumenali ancora? Ci racconti no, qualcosa? Questi non prendono comunione. Non prendono comunione. Però mi scrivono giustamente, mi chiedono, ma dopo il peccato lei pregava? Sì, domanda giusta questa che mi fa Sebastian. Ma dopo il peccato. Ma lei ha aderito a questi neocatecumenali? Ha iniziato a fare ma questo? Ma per l'amor del cielo. Ma allora scusi, che ci sta a fare con questo qua? Però anche lei non è proprio un angelo, signora mia, che è sposata con una figlia. Ammetta che pure lei ha commesso degli errori. Tra l'altro mio marito è morto 13 anni fa. Pure. Allora quando è successa sta roba, scusi? Prima che morisse mio marito. Prima che morisse suo... Scusi, ma io vorrei capire una cosa, signora Gabriella, ma per quale cazzo di motivo ci ha chiamato noi stasera? Scusa, vorrei capire. Ecco, bravo. Per dire questi qua che si sono riuniti a Roma, per il Family Day, proprio sono ipocriti. Sì. Sono ipocriti perché? Molto ipocriti. Sì. Cioè gente che non fece quelli di Chico, lo spagnolo. Sì, che è stato il fondatore di questa comunità. Sì, però anche lei si faccia aiutare, signora. Sì, si faccia aiutare anche lei. Ma ormai si è superato. Oggi come sta lei? Sta di nuovo, sta sempre con suo marito è morto, abbiamo detto, capisco più niente. Questo signore qua sola con mia figlia. Solo con sua figlia. E tre cani. Vabbè, mettiamoci pure i cani. Ma questo signore qua ancora lo vede, ancora No, per l'amor del cielo. La moglie è morta pure, ma quattro anni fa di tumore. Ma c'è una cosa che va dritta in sta cosa. È incredibile. Scusi, ma sembra tutto paradossale, però lei allora ricapitoliamo e poi chiudiamo. Allora, no, ma non c'è nulla. Vuoi ricapitolare? La signora è sposata con una figlia. Ha la storia con un neocatecumeno, il quale ha quanti figli ha questa 9? 9. Veniva picchiata regolarmente, capelli strappati, morsi sulle mani, mani quasi staccate, violenza incredibile, eccetera. Pugni, pure i pugni, pure i pugni, eccetera. Va avanti, quanti anni va avanti sta storia? 7 anni? 7 anni. Lei non denuncia, non fa niente. Questo dice: no, se denunci, ti mando sulla sedia a rotelle, eccetera, eccetera. A un certo punto muore suo marito, la moglie di questo, e amica mia. Tra l'altro ha detto che se non avesse incontrato la moglie, io ero la donna della sua vita, Se non avesse incontrato la moglie, beh, questo qua mi sembra la cosa più normale, insomma, tra quelle che sono successe. Mi ha riempita di gioielli, di fiori. Sì. L'ultimo l'ho venduto un gioiello. Scusi, ma l'ultima volta quando l'ha visto questo? Un brillante da 50 da 5 carati. Scusi signora, l'ultima volta che ha visto questo signore neocatecumeno con noi figli, quando è stato? Ah, saranno stati 10 anni fa forse. 10 anni fa? Ma scusi, ma ci siamo rincontrati perché siccome tutti in questi ultimi 10 anni lavoriamo nell'ambito sportivo. Scusi, quanti anni ha lei? Ho fatto finta di non vederlo. Ha fatto finta lui di non vederlo. Invece mi è venuto incontro. Che dramma. Si era rimesso la fede. Sì. Si era rimesso la fede. Dice: ma non mi conosci. Questo 10 anni fa. Mi pare uccelli di Roma questa storia. Quasi. E adesso negli ultimi anni che è successo? Niente, ci ho messo 9 anni per chiamare la radio per raccontare questa storia. Ma dovrei scrivere un libro, questo dovrebbe scrivere anche mia figlia. Vabbè, Gabriella, ciao. Ma scusi, ciao, no, ciao. Voglio capire. Aspetta un attimo. Fermati, fermala. Ferma la signora. Ultima domanda del signor Sebastian che dice: ma cosa la attizzava di lui? Questo è interessante, però. Ha ragione, ma non era neanche un bell'uomo. E allora cosa l'attizzava? Non lo so. Onestamente non le so dire. Vabbè, ciao. Va bene, ciao, grazie. Ciao. Alessandro da Perugia, vai. Poi Paolo da Pordenone, vai Alessandro. Sì, ciao Peppe, ascolta un po'. Io ho chiamato perché sono cazzatissimo con Parenzo riguardo la nomina dei Sofri lì. Non è stato più nominato poi, purtroppo. Ma perché mi viene a dire che Sofri è un difensore dei diritti umani, che è un esperto, ma dei diritti umani di che cosa è esperto? Scusa, Parenzo, ma che te stai inventando? Ma Calabresi, i diritti di Calabresi dove stanno? Li ha difesi lui i diritti? Scusa, cosa c'entra Calabresi? Calabresi purtroppo, c'entra. Pace all'anima sua, è morto. C'entra, uno che ha ammazzato un commissario di polizia, non va a fare consulenza. Ha ammazzato Calabresi, è accusato, condannato. Ma non dire puttanate, mi fai incazzare su questa cosa qua. Perché non parli anche di altre sentenze? Ma infatti ci sono anche altri processi controversi. Condannato tu sei proprio indifendibile, Parenzo. Pazzesco, solo dalla parte tua, hai capito? Perché pure il Calabresi c'aveva i diritti. Ma qual è la parte mia, genio? Queste specifiche non le fai per altre persone. È condannato, è stato condannato a 22 anni per essere il mandante. Non c'entra niente. Tutti i processi, perché non lo dici? Perché non lo dici di Berlusconi nel processo? Allora, alcuni processi a Berlusconi sono assolutamente tutti sono controversi i processi. Quando uno si dichiara innocente, nel processo di Rubi, processo controverso, è stato assolto. Non dire cazzate, dai, su. Quindi va rispettata quella sentenza. Che quando sono amici tuoi, difendi. Quando appartiene al tuo mondo, difendi. Ma io Adriano Sofri non l'ho mai incontrato in vita mia, peraltro. Pubblicità. Sai che dici proprio delle banalità, ti giuro, ma veramente ti stai santecchentizzando. Invesco, per i tuoi risparmi, investi con noi. Vi presenta... State ascoltando un programma offerto da... Stazioni di servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene. La Zanzara. Still real. andiamo Alessandro, volevi chiudere? Alessandro Perugia? Come Peppe. Allora? Ascolta un attimo, voglio dire un'altra cosa che mi ha chiamato professore, quello che c'è vicino a te, no? Mi dici che io ho una terza media, ma sono 35 anni che sto in mezzo alla via, ancora appresso a quei sozzi che lui difende tutti i giorni. Quindi qualche lezione gliela posso anche dare. Chi difenderei, scusi? Con gli sossoni che difendi tutti i giorni. Chi difendo io, scusami? Quelli che, di cui parli tu, che parli. Dimmi chi difendo. Dillo, forza. Lo sappiamo, su. Chi difendo io? Chi difendo? Tutti io i non difendo i criminali. Gentaglia, io non difendo i criminali. Vabbè. Ascolta, sì. Adesso te lo chiedere una cosa. No, vabbè, un corno. Ascolta un po' una cosa. Ti ricordi qualche giorno fa, però, che ti ha chiamato un radioascoltatore che ti ha detto, facendoti notare, quando parlavi di Matteo Salvini, che è mio amico, peraltro, Matteo Salvini, che l'hai criticato perché voleva usare le rusche per buttare giù le baracche. Ti ricordi che l'hai criticato? Che vuol dire che è amico tuo? Non ho capito. Vabbè, perché è amico mio. Che vuol dire amico tuo? Essere amico mio? Sì, ma che vuol dire amico tuo? Ma lo conoscerà, mio? Che problema c'è? No, ma uno dice amico. Gli avrà fatto da scorta, non lo so. Vabbè, è amico mio. Comunque, ma che vuol dire amico tuo? Spiegami. Ma lui fa il poliziotto, non lo so, l'avrà visto. Ma spiegaci, siccome hai detto, tra l'altro, è amico mio, adesso spieghi. Vabbè, scusami. È un suo amico, lo conoscerà. È amico mio, Peppe, è amico mio. Ma che vuol dire amico tuo? Che vuol dire amico tuo? Amico di Facebook, amico di. Ma lo amico gli hai stretto la mano una volta. Fa il poliziotto, fai ammuina. Io ho stretto la mano. Ma Peppe, dai, su, non dire stupidaggine. Non è così, non è questione di stringere la mano. C'è qualcos'altro, perché siamo. Vabbè, ascolta, no, io volevo fare notare una cosa a Parenzo. Vabbè, no? Ma adesso vuoi cambiare discorso, dai. No, su. Io volevo soltanto dire, quella volta l'ha chiamato quel radioascoltatore, appunto, sì. E ha fatto notare che in Israele buttavano giù le case dei parenti dei terroristi. Di chi? Ti ricordi che. Vabbè, allora? Ah sì, certo, allora lui in una zona di guerra, dice, quella sì. È un'altra cosa. Perché è un'altra cosa? Scusa. Perché non ti spiego, cosa. Perché no, è una cosa un po' diversa. Perché le case che sono state abbattute nella striscia di Gaza, per l'esattezza, ma adesso Gojai dirà chi se ne frega. Erano case dove dentro c'erano delle armi e davano alloggio ai terroristi. La situazione è un po' diversa in una zona di guerra rispetto a in una zona di pace qual è l'Italia, capisci la differenza? Adesso, però, se io non ho letto male, hanno abbattuto anche Nasiro Nido, che fecero gli italiani laggiù nel 2014, voglio dire, pure lì dentro c'erano le armi. Lei sa, perché è attento, invece di dire non c'entra terza elementare o prima media, lei è una persona attenta che legge i giornali, saprà perfettamente che dentro quell'asilo che lei menziona, beh, se no gli rispondiamo, ma ha ragione. Ah, sì, non stiamo, certo, hai già risposto. E allora, vabbè, no, ma siccome ha detto una cosa esatta, in quell'asilo che lei ha menzionato, che è stato costruito anche con i soldi degli italiani, i terroristi di Hamas custodivano delle armi, come spesso hanno fatto da sempre. Grazie. Grazie Alessandro. Paolo da Pordenone, Paolo, dimmi. Paolo? Paolo? Paolo Pordenone. Non c'è, dai, non chiudi, c'è. Basta. Matteo, no, anzi no, Massimo provincia di Arezzo, ma stai tranquillo, stai calmo, Massimo dalla provincia di Arezzo. No, andiamo via, dai, chiudi. Ma via che? Ma che dici? Chiudi, basta. Massimo, provincia di Arezzo, sì, dai. Sì. Chiudi. Sabato, Piazza San Giovanni. Vedo che è stato un articolo interessante. Chico non ha detto quello che si vocifera. No, infatti non ha detto niente. No, per carità. Ha usato. Ma scusa, ma io voglio interiore, capire. Interiore. Scusa, Massimo, mi puoi dire il motivo per cui uno al palco, dal palco del Family Day a nome dei neocatecumeni. Non era un. Vabbè, ma quello che è, dai, su. No. Era difendere quella figlia. Difendere la figlia. Allora. Quella figlia che tu hai a casa. Ma io guarda, non ho bisogno né di Arguello né di Massimo della provincia di Arezzo per difendere mia figlia che è a casa, te lo posso assicurare. E quella giudizio. Manifestazione certamente non aiuta mia figlia, chiaro? Io dico che se domani gli insegnanti ti permettono di riportare cose in un certo modo e far passare questa legge, come nelle pieghe di questa legge ci siano adozioni. Chi c'è? Siano ma qui l'adozione siano. E tu sei allora, contrario, va benissimo, no, che tu no, sei contrario, no, no, fai la tua adozioni, battaglia politica, adozioni, fai la tua battaglia no, politica, no. Io sono a favore, se ma vinci tu, più, tanto di cappello, se vinco io, ho vinto io, basta, come le tutti linee paesi. Guida, le linee guida dell'OMS, ma è una cazzata, non è vero, vomitare. In nessuna scuola italiana quelle linee guida vengono impiegate, vengono vedremo. Eseguite, ma vedremo di che, ma tu, mia figlia va a scuola pubblica, mia figlia, con una certa autorevolezza. d'oggi penso che cambierò idea. Ma cambia idea quello sempre, che ti pare, non mi interessa. Il punto fondamentale è un altro. Massimo, mia figlia va a scuola, in una scuola pubblica. Nessuna professoressa, se lo facesse mi incazzerei come una biscia. Parla di masturbazione, parla di sesso genitore 1, genitore 2, parla di masturbazione nell'età non so quando. Nessuno, se parlano di sesso a 9 anni a una bambina a scuola, un professore, gli faccio un culo così, chiaro? Bravo. Okay. Ma no, ma è questo, è evidente che sia una roba che decide l'Organizzazione Mondiale. Ma questo è evidente, ma non perché ci sei tu che me lo dici, o il professore Arguello o un altro stronzo qualsiasi. Dai, Chico su. Si è manifestato come una persona normalissima che ha un'esperienza di fede, che ha parlato di uccisione di donne e di bambini in maniera ridicola, non ha giudicato e non mi sento di giudicare. Vabbè, nessuno che parla, ciao Massimo, in maniera ciao, inadeguata. Ciao. Claudio da Roma, vai! Claudio, dimmi. Pronto, eccoci qua. No, dico, io ho chiamato perché ho sentito le elucubrazioni, si dice? Elucubrazioni, sì. Di Filippo Facci Sognare, la reporter e non gli altri. Ma io non so, quello perché c'è accanimento contro un soggetto, un ragazzo. No, veramente in questo caso è Fedez. In questo caso è Fedez che ha parlato di Facci, però dicendo che un botta e risposta, sì, un botta e risposta. Vabbè, ma insomma, dai, qual è il problema? Ma Facci dovrebbe essere orgoglioso che Fedez parli di lui, perché di Facci non parla nessuno. Cioè è ridicolo, è antipatico. E si accanisce contro uno che c'ha le palle e c'ha il coraggio. Adesso Fedez qua deve dire quello che pensa. Vabbè, va benissimo che dica quello che pensa. Sì, ma uno può criticare o no quello che pensa, quello che dice Fedez? Anche una cosa, ma uno può criticare quello che dice il signor Fedez oppure è oro colato? No, la vita allora, bella, uno critica così costruisce, appunto. No? A parte Facci, tutti gli altri criticano che costruisce. Voglio dire questo, cioè noi viviamo, ho sentito dire. E qui succedono queste cose rispetto pure a quel tizio che sta fuori, 44 anni di galera. Adesso dico solto pezzetto e poi abbandono. Cioè, ma noi parliamo, siamo meravigliati? Ma in Italia, ma chi è che va in galera? Corona ha fatto il parallelo. No, ma infatti non c'è da meravigliarsi. Non c'è Berlusconi si è fatto 6 mesi a giocare con i colleghi, con gli amici suoi dell'età sua. Corona. È pure molto antipatico, diciamolo, ha subito quelle punizioni perché prima di tutto ha estorto, ma quell'altro non l'ha manco denunciato, mi pare, Trezeguet, no? No, ma ho capito quello che dici tu, che nessuno... 15 anni di galera, noi abbiamo un Castiglione che non è che ha fatto... Per adesso Castiglione è solamente accusato, adesso diciamo... Allora pure quello che gli hanno dato 44 anni... Beh no, quello ha una condanna, ha già una condanna per reati gravissimi, per cui uno normalmente si aspetta che una persona stia in galera, omicidi e cose varie. Comunque quello, se era un parente dei due vecchietta, avrei già ammazzato e messo sottoterra, così risolviamo il problema e paghiamo pure meno spese di tribunale. Va bene, ciao Claudio, ciao. Ti saluto e ciao. Grazie di aver ciao, invitato Claudio. Facci, ciao, grazie. Ciao. Matteo Verona, vai. Pronti, cari cruciali di Palenzo, buonasera. Dimmi. Ciao. Vai Matteo, parla su. Ascoltami, io volevo fare un appello, perché dobbiamo smetterla, dobbiamo internare Sara Tommasi e denunciare Andrea Di Pre, perché non è possibile. È una battaglia, tesoro, amore, è una battaglia che stiamo facendo da un sacco di tempo, ma un po' alla fine chi se ne frega, continuo, adesso avete visto anche il video, l'ultimo video su Facebook. Ma il video è di qualche settimana fa, prima di questa nuova cura di Sara Tommasi, che si è ritirata in una casa a Chioggia. Sì, adesso è che a Chioggia farsi curare, però no. Farsi curare, ha ripreso le cure, bipolare, ha detto anche che i suoi genitori volevano denunciare Di Pre, sì, errori, persone sbagliate. Il problema non è Sara Tommasi, che se la vedrà lei con i suoi genitori. Dobbiamo arrestare fenomeni da baraccone come questo Di Pre, che a mio parere va arrestato. Sì, lo dico un po' per scherzo, ovviamente per arrestare qualcuno ci vogliono anche i reati, però no, io credo le procure che vanno a indagare per cagate dalla mattina alla sera, che si prendano la briga di qualche pubblico ministero che vuol fare. Sì, ma se due persone, adulte e consenzienti. Ma è lì il problema, io non sono convinto che sia consenziente. Se c'è circonvenzione di incapace o altri reati, sì, ma insomma, io spero che succeda qualcosa. Pare che per adesso, però, la signora Tommasi si sia liberata dal signor Dipré. A proposito di Dipré. La zanzara contro Dipré. Questo era di marzo. So you think you take another piece of me. A me non me ne frega un cazzo, perché l'Italia non è niente. Io sono un capo di religione. Beh, no? Sei? Il diprismo. Va bene. Ma quale religione? Allora, cos'è sta roba? Cos'è il dipreismo? È una religione fondata sul sesso, sulla droga e sul denaro liquido. Cioè, questo è il personaggio, questo è il personaggio. Io sono come Gesù Cristo, diceva. Dovete capire come se avesse chiamato il Papa. Sì, certo, come se avessimo chiamato il Papa, certo. No, vabbè, ma che ne so, il Dalai Lama. Dalai Lama. Ora, l'unica figura che può essere comparata a me. Sì. Però, cioè, dove non dico di essere superiore o inferiore, ma può essere comparata. Comparata, certo. È Gesù Cristo. È Gesù Cristo, bello. È chiaro. È soltanto che la mia fede si basa sul motto: però notte, coca di gnocco. Vabbè. Ragazzi, ma se uno non viene internato per questo, ultimamente l'abbiamo richiamato, era maggio. Sentite cosa ha detto: potete fare carne umana per il dipreismo. Cos'è che ha detto? Non mi ricordo. Vabbè, che cosa possiamo fare per il dipreismo? Diventare carne umana. Diventare carne umana. Guarda, credo che sia tutto il giorno. Tu che cazzo fai, però, tra parentesi? Non lo so, cerca di campare. Diventare carne umana da. Sì. Giochetto come della caccia all'uomo. Sì, certo, per il dipreismo, certo. Possiamo fare le prede, diciamo, no? Le prede. Se lo fate, possiamo rimanere in contatto, sennò andate a fare il culo. Vabbè, dopo questa intervista di Sara Tommasi, purtroppo ci siamo fatti male, l'abbiamo richiamato il signor Dipré, Sara Tommasi, che pare essersi liberata da questo pazzo. Pronto? Dipré? Sì. Ciao Andrea, sono Cruciani, come stai? Stiamo calmi, Ciao, no, calmi. Come va? Bene, tu? Non c'è male, ma senti, hai visto, come stai? Ti sei appena svegliato? Che hai fatto, come al solito? No, ho appena provato una nuova sostanza. Una nuova sostanza? Sì. Ho appena provato una nuova sostanza che mi ha inviato. Ti hanno inviato? Dal Sud America. Dal Sud America, sì. Mai andato. Carabinieri nessuno, Carabinieri ancora non sono arrivati, no? Forse perché sono un avvocato, capito? Ma sì, avvocato ancora... Senti, io ti voglio dire una cosa. Sara Tommasi sta meglio, sembra, sta cercando di recuperare. Mi prometti che non ti avvicinerai più alla signorina? Ma Sara Tommasi mi chiama costantemente e sa benissimo che io sono per lei l'unica via al successo. Sì, certo, ai soldi facili. Sì, alla morte anche. E anche alle sostanze. Sì, alle sostanze, e certo. Quindi purtroppo, poveretta, ha attorno. Chi ha attorno? I parenti, dei familiari del cazzo, che poverini. Ma i familiari ti volevano denunciare? Ti vogliono denunciare, fanno lei bene, ha detto. Fanno bene. Che provengono da ambienti. Ma da quali ambienti? Di agricoltura, non lo so io. Di ambienti agricoli. Sì, ambienti agricoli. Vabbè, puoi dire per favore, non mi avvicinerò mai più a Sarato. Forse non è chiaro, se io discendo dalla monarchia francese, quindi sono abituato a mangiare monarchia francese, a mangiare i pasticcini, non il pane. Ma un ricovero no, Nietzsche disse: Dio è morto. Andrea Dipré dice: io sono ancora vivo. È per poco però. Scusa, ma quel video che hai fatto, tra l'altro, quella canzone là agghiacciante che sta circolando, agghiacciante. È stupenda. Ma quando l'hai fatta quella roba lì? Quando l'hai fatta? Ma di recente, ma sono orgogliosissimo perché rappresenta tutto il dipreismo. C'è il riferimento al senso orgiastico, ma quale orgiastico? Ma quale droga? Ma quale? Sei messo molto male, sai? Sei messo male. Lasciatelo dire. Il denaro, certo, il denaro. Se un ragazzino dovessi dire: vuoi sapere, vuoi studiare, vuoi avere un compendio del bipreismo, guardati quel video. Ma quale compendio? Il compendio della follia, il compendio della pazzia mentale. Cioè... Comunque non ho forza di replicarvi. Ma no, non hai forza perché sei strafatto completamente, sei ormai sull'orlo. Non della... riesco ad arrabbiare. No, non riesci manco ad alzarti dal letto, questo è il problema. Ti troveranno rantolante. Dovresti vergognarti e ti dovrebbero arrestare, a mio parere. Ma comunque guarda, non riesco a non riesci a replicare perché sei ridotto malissimo. Io non capisco come non ti vergogni, perché sei uno che ha studiato, ad esserti ridotto così. Vabbè, ti saluto, vai a quel paese, ciao, vai a quel paese, ciao. Oh ragazzi, chiudiamo con Francesca da Roma. Ormai la follia è arrivata a dei livelli incredibili, a livelli io mi voglio però forzare, Parenzo, ci sarà il momento in cui non chiameremo più di pre, cioè, arriverà il momento, no? Arriverà il momento, se no altrimenti quando dai su da noi, ma no Francesca, vai, ignorarlo. Microfoni, buonasera. Sì. E buonasera Parenzo, complimenti per dai, il coraggio, forza, che avete chiamato questa gente. Francesco. No, volevo dire soltanto una cosa che hai detto tu prima riguardo a Corona, che condivido in pieno, anche sì. Perché in Italia ci sono 1000 detenuti nella sua stessa sì, ma togli il viva voce, togli il... Una... Non ce l'ho il viva voce, dai, no, però sto a casa dentro la camera mia, quindi, dai. Anche perché ti sento tutte le sere e quindi lo so, lo devo l'odio. Comunque sia, se la legge italiana esiste, lo stesso trattamento che hanno avuto per Corona... dovrebbero averlo per altra migliaia di detenuti. Speriamo che sia così. Fermi tutti, ci sentiamo domani 18:30. Ciao. Io vi saluto, vi mando a fare in culo e finisce la storia. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8. Ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Ormai è tutto. Tutto degradato ormai. Radio 24. La passione si sente.